Do il buongiorno ad Emilio Varrà, il presidente dell'associazione culturale Amelin. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, nuova edizione del Bilbo il Bull, Festival Internazionale del Fumetto, dal 2 al 5 dicembre. Tra l'altro si torna in presenza. Quanta emozione e come sarà questa nuova edizione? Allora sì, siamo molto contenti anche noi di ritornare in presenza e anche abbastanza massicci, nel senso che abbiamo tutta una serie di mostre in città come da tradizione, sono 9 le mostre, sono 23 le mostre off, sono 25 gli incontri che si daranno dal 2 al 5 di dicembre. L'obiettivo è duplice, diciamo, per dare un ritratto di questo festival. Da una parte si vuole fare un bilancio di questo primo quinto di secolo e in particolare dell'impatto che ha avuto il graphic novel nel panorama fumettistico italiano. E grazie alla cura dell'Accademia ci sarà un convegno il 2 dicembre che si terrà in Accademia tutto il giorno con artisti di varie generazioni, da Igor a Fumetti Brutti, per darne due, che dialogheranno insieme e si confronteranno su questo tema. Questo confronto tra generazioni è un altro filo rosso invece di tutto il festival, perché dedicheremo sia delle mostre, penso a Invisible Lines, che è una mostra che abbiamo organizzato grazie alla partecipazione a un progetto europeo e presenterà il lavoro di 12 artisti e artiste provenienti da 7 paesi europei diversi, under 30, o al desiderio di presentare degli esordi editoriali, quindi di giovanissimi autori, presentati da autori invece professionisti e già affermati, è brutto dire vecchi, quindi diciamo già affermati. E questo dialogo, oppure la mostra Cigaretten, che ad esempio vede quattro autori e autrici, di cui due, Rupert Émulot e Fior, che chiaramente hanno una grande tradizione, invece Anna Ditzel e Benedetta Vialli, che sono ai suoi esordi. Quindi questo dialogo tra vecchi e giovani è sicuramente un modo per noi per analizzare appunto l'impatto e le trasformazioni di questi 20 anni di fumetto. Infatti si festeggeranno anche i 20 anni del graphic novel e come festeggerete, anche se già qualcosa, insomma, ci hai detto? Sì, in realtà questo gioco dei 20 anni è semplicemente un modo per raccontare gli anni 2000. Il graphic novel in realtà è difficile definire quando nasce il graphic novel, ma sicuramente sono più di 20 anni. È proprio attraverso questo confronto generazionale, secondo noi, il modo migliore per festeggiarlo, perché da una parte è necessario cominciare a fare dei bilanci e quindi essere retrospettivi, però il nostro obiettivo, ed è sempre un po' una tradizione di Bilbo Bull occuparsi dei giovani e delle prospettive del fumetto contemporaneo, è importante creare un dialogo con le nuovissime generazioni. E da questo punto di vista anche il panorama delle mostre off, per quanto hanno l'off, è parte integrante del programma, perché lì veramente si vede l'humus che Bologna comunque continua assolutamente ancora a coltivare e a produrre. Questo, diciamo, tra le varie novità, questa invece è una costante, Certo. assolutamente. Qualche ospite internazionale? Certo, infatti era il tassello che mancava, l'internazionalità. Il manifesto di quest'anno è ad opera di Fredrik Peters, autore di Pillole Blu, autore svizzero di notevole fama, che sarà con noi, e insieme a Antoine Cossé, che invece è un autore franco-inglese, inedito in Italia, quindi c'è sempre la volontà del festival di proporre autori importanti che per noi ancora non sono editi. Ci sarà la nostra Gabriella Giandelli e poi avremo Anders Nielsen dagli Stati Uniti, che stavo per dire era un autore importantissimo, ancora inedito in Italia, ma finalmente il suo libro principale, Big Question, sarà pubblicato e quindi questa è l'occasione per presentarlo a un pubblico più vasto qui in Italia. E poi ci sarà anche delle cose interessanti e curiosi, ad esempio una mostra di un collettivo che nasce da una collaborazione tra artisti della Tanzania e artisti italiani, e un collettivo francese che si occupa a cavallo di opere a cavallo tra l'animazione e il fumetto, che compongono l'idea anche del fatto che anche la geografia del fumetto sta cambiando. Paul Gravett, grande critico inglese, ad esempio farà una conferenza proprio sui fumetti che stanno venendo da regioni del mondo che non hanno una grande tradizione, ma che stanno esprimendo adesso delle opere invece importanti. Grazie mille. Grazie a voi e vi aspetto al festival.